Stilo! Stilo! Avanti, chi è? Oh, Giuseppe! Ma tu ti chiami Tino, no? No, io non mi chiamo Tino. A me mi chiamano. Ma io stavo chiamando a Tino e ha risposto tu. Vabbè, io sono sempre qua. E io sono sempre là. Giuseppe, cosa che stai combinando? Nulla, nulla, mio marito. Sono andato a fare quella domanda del reddito di coso. Anzi, dalle 9:30 ne sono uscito quasi a luna. Addirittura? Certo. Perché dove la fai quella domanda? Dietro i pompieri l'ho fatta, in via Fermi. Ah, in via Fermi. Ma perché lì bisogna andare? Qualsiasi CAF, Giovanni, qualsiasi CAF lo fanno, però oggi e domani ci sarà il mondo, perché stamattina, quando c'ero io, c'erano più di 20 persone. Perché è iniziato da ieri, è iniziato. No, è iniziato da oggi, hai capito, è iniziato dal 6, e dunque tutta la gente, sai com'è, e sono come la ciocca, no, tutto in pari, e non preso. C'è tempo ancora, per cui, certo, non è che chiudono subito, già c'è del tempo, per cui, quando c'è poca gente, e vado e me lo faccio. E vai, domani, tanto ci vuole la fotocopia della carta d'identità, la fotocopia del codice fiscale, e basta, poi ti chiedono cosa c'hai, se c'hai macchina, casa e proprietà e tutto quanto, quella cosa là, capito? Dunque, vedi un po' cosa ti dicono. Io gli ho detto che non c'avevo nulla intestato, dunque, tanto a quando fare i conti ci passerà del tempo. A te va per Isabella, c'è tutto per Isabella, ma c'è cadu. Voglio sapere tutto, cazzo, anche le cose, come si chiama, se c'è qualche cartina, capito, devi fare, se c'è il modello ISE, devi andare là, fare la richiesta del modello ISE, poi devi andare alle poste e fare le cose del giacenza, devi dichiarare che c'hai quelle cartine e le devi dichiarare, hai capito? E ormai sono come cazzo i vampiri, cazzo, ti succhiano il sangue come niente. Confisemo. Hai capito, Giovanni? Aiuta, confisemo. Purtroppo. Siamo in mano ai tedeschi, cazzo, a questa gente qua, cazzo, di extracomunitari, quella cosa là non gliene chiedono, alle zingare non gliene chiedono, cazzo, ma okay, tutto gli è dovuto a loro, hai capito? Noi siamo noi italiani che cazzo che vanno, hai capito? Purtroppo noi siamo ebrei. Perché noi siamo in Italia, la legge è fatta per gli italiani e questi marocchini non c'entrano il cescolo perché non hanno, che già c'è qualcuno che risiede qua e anche quelli devono fare anche loro questo modulo, capito? Ma molti non risiedono qua e allora non ne devono fare loro, solo gli italiani li fanno, chi è il residente italiano, ecco, purtroppo è così. No, non è purtroppo, è il fatto, mi vedere, secondo cosa, quanti conteggi ti fanno, e se c'è casa di proprietà e tutta quella roba là, non te ne danno, hai capito, è inutile fare la domanda, non te ne danno, te ne fa cosa... È fatta così perché dice che tu superi il reddito e allora cazzo non te ne fanno fare, capito? Dunque, adesso vediamo. Aspetta il telefono, Giuseppe! Avanti, Giomarì. Era al telefono. Hai capito com'è la questione? Già ho capito già com'è. Il cammino da contraguardo è già grigio. Allora, vedo un po' come c'è la situazione, per cui... Tu l'hai fatta e sei tranquillo, va bene, e io la devo fare. E falla, Giomarì, perché però devi dichiarare tutto, hai capito? Se c'hai case, campagne, vogliono questo cazzo del coso, dei prezzi della macchina, quante macchine c'hai, capito? Devi dichiarare tutto quanto. E allora sì, a cosa siamo? Hai capito? Vogliono sapere tutti i cazzi nostri, vogliono sapere loro, perché sennò, giustamente, hai capito, come, fate la legge e poi trovano l'inganno. Ehi, il camion da Corsale Barra non si è chiuso. Allora, vediamo. Ok, d'accordo, ci sentiamo magari più tardi che sono in apparato, ok? Ok, dai, domani ci sentiamo, dai, ya, sono qua. Ya, io sino alle 6 sono qua, poi riprenderò da casa, dai. Ciao, Mari. Stasera? Mamito, sì. No. La prodo solo. È vero. Ehi, e tu cosa fai? Mi stavo chiudendo le scatole dell'impianto elettrico. Ah, ci ha fatto l'acqua di là. Eia, adesso faccio fare tutto l'impianto con i fili nuovi, capito? Ah, vabbè, cos'altro ce l'ha da fare? Se i fili li hai già messi dentro, la scatola è chiusa, no? Così che cos'altro ce l'ha da fare? Ma l'impianto sì, quello là sì, ma il vecchio impianto, quello che va nelle prese, è tutto a capo rigido, capito? Ne avevo tutto e lo faccio nuovo. Atta, è un macello, è un macello a togliere, perché se sono come questi qua a togliere i fili non ce la fai, vedo. Perché avevo messo le guaire strette, cassetta, e poi aggiunti. Cioè, hanno fatto lo schifo di impianto elettrico qua, che fanno schifo, cazzo. Speravo non sia come qua. No, perché è stato già fatto qua in un appartamento, capito? È stato tirato fuori il vecchio, allacciato il nuovo, capito? E i tubi rimangono, i tubi sono da 25 questi qua, i tuoi non lo so. Qua sono tubi stretti e hanno messo i fili attrucciolati, capito? Rigidi, tutti i fili rigidi anche qua sono, capito? E hanno fatto, ma per carità, impianto, guarda. E in qualche punto l'ho rifatto nuovo, ma è la maggior parte del tuo impianto vecchio, capito? E purtroppo è sempre quel filo rigido, capito? E non solo di quelli i grossi, sono più fili, capito? Ma è sempre che sia da uno o da uno e mezzo, boh. A me sto tutto due e mezzo. Due e mezzo, devo prendere tre matasse di cavo. E basta, non devo prendere altro. Per cui l'impianto allora è perfetto lì. Sì. No, l'altro l'ho già passato, tutto già fatto l'altro. E niente, adesso mi stanno arrivando le lampadine e così è tutto pronto. E lui? Ehi, ehi. Vabbè. E io giravo cosa d'altro, mi stavo scendendo da Lente Popolare che non mi sono arrivati i bollettini e allora siamo saliti e me li ha stampati davanti, capito? E ne siamo messi da là. Allora se mi ristrappo a me pure vado anch'io. domani mattina, se tutto va bene, andiamo a prendere quella roba, lui. Ia, va bene. Ti telefono domani mattina, eventualmente, capito? Ok, va bene. D'accordo, a dopo allora, che metto a caricare questo apparecchietto, dai. Mi raccomando, caricalo bene. Ia, a dopo. Ia. Attenzione, signor Bacchisio. Attenzione, signor Bacchisio. Grazie. Tore, attenzione Tore, cambio. Ebbè Maria. Gio Maria, buonasera, come andiamo? Si va avanti, si va avanti. Ma che Bacchisio, nemmeno Tore, Tore si è assentato, è andato a prendere la 50. Bacchisio, sono già 3 giorni che non lo sento. Ma forse non si sente bene Bacchisio? Sì, insomma, provo a passarci io se esco presto. Oggi sono tardi, sono uscito quasi alle 5:30 dalla sabba, comunque mi sono riposato un po' perché ero stanco, ero da stamattina fuori di casa. E sinceramente, guarda, me ne sto appena alzando, figurati. Ho acceso così tanto per scaldare un po' qualcosa. Domani mattina appena esco dalla voce, esco prima e provo a passarci. No, perché domani dovrei provare l'antenna. Ho messo l'antenna nuova, una che ce l'avevo, che l'altra mi si è rotta e la devo provare. Oh Giovanni, fa la cortesia, prova a passare sulla 27, sulla 23, che mi dai controllo, che forse che con quell'antenna c'è qualcosa che non mi va, che così domani la riscendo e la controllo. Fa la cortesia, passa sul 23, però Giovanni. È acceso sempre, io quando accendo questo accendo la 27, è sempre acceso. E adesso ti chiamo, vediamo se mi sento, perché boh, c'è qualcosa, o c'è qualcosa in corto. Vabbè, adesso ti chiamo io, dai. Avanti Giovanni. Qua ci saranno però, se è antenna nuova dovrebbe uscire bene. Sì, no, ma me ne sono accorto, poi ho piazzato regolarmente come piazzo, insomma, non è la prima volta, ho messo il cavo nuovo, so quanto, boh, è ben piazzata. Perché l'ho spostata, non l'ho messa dove c'era l'altra, capito? L'ho messa dove c'era la prima volta, perché l'altra me ne stavano problemi all'antenna della televisione. Problemi di cosa? Che era ben ancorata e eravamo legato un po' all'antenna della televisione, no? Siccome vibrava, mi vibrava l'antenna, c'era una parabola che mi mandava il segnale del telefono fuori frequenza, capito? Tutto qua. E neanche Graziano è entrato, so che è influenzato Graziano, non so se avanti diciamo lì. Si può? E a Bacchisio, Milo che io che Bacchisio, avanti Bacchi, buonasera. Buonasera Gio Maria, buonasera Marino, ben ascoltato tutti e due, avanti ancora. Ok, buonasera Bacchisio, stavo parlando male di te, visto, ho detto ma domani le faccio una bassa e passo a vedere come sta facendo Bacchisio. No, stavo dicendo che so che Graziano è influenzato, è già 3 giorni influenzato Graziano, avanti Bacchisio e fai girare, dai. Io Graziano allora non si sente per quello. Influenzato. A me mi sembra che la pigliata che imbriaghiera, anche influenzato, così è Gio Maria. Non ho capito, Bacchi, scusa, non ho capito che ero un po' disattento. E tu dici Graziano è influenzato, a me mi sembra non sia influenza, è imbriaghiera. Con l'influenza deve essere, così ha detto Luca, dice che ha mandato un messaggio e l'ha detto, dice che era a letto, che non si sentiva bene, capito? E sicché senz'altro ha beccato l'influenza, tu Bacchi, ieri sera, a partire sera, non ti ho sentito, dove vai? Era impegnato, ero insomma lì, poi lunedì mi sentivo male, non ho acceso, non avevo canna pannuta. Ieri ero impegnato tramite radio e oggi mi sono liberato un poco fa, adesso voglio accendere un po' e sento qualcuno, perché ho sentito fuori Pina via telefono che diceva Luca se metteva le frequenze su quella cosa, su una radio, in quegli autocanali. L'importante sono gli impegni, Bacchi, così che si è impegnato. infatti c'è l'attore qua, ha fatto due o tre chiasso. Infatti, ho detto, ma no, ti ho detto, ho detto, tu che c'è il telefono, ti fate per voi se sta, se sta bene con lei, cosa sta facendo. E dice dopo il telefono. E stavamo qua e poi si è assentato perché è andato a prendere la 50. Ok, vai Marì. Ok, dai. Se facciamo, ma chi è risolto di quella faccenda? Ma quella faccenda ho risolto, però mi ho fatto il pacco, sta partendo domani mezzogiorno. Oh, ma chi? Io dimmi, sono Marì. Ma ti ricordi di quell'attrezzo che stavamo parlando l'altra volta? Che... Ma cos'è? Qualche portante è questa, no? Quella, la motosega a batteria. No, oh, elettrico. Ma lì, no, lì. A batteria mi sembra che ci sia. Ah, beh, oh beh, perlomeno io ho capito che la stavi cercando quella elettrico, perché io l'ho trovata elettrico e me l'ho sorpresa, capito? E infatti volevo dirlo a te, se ti pensavo ancora che c'è. No, insomma, ma elettrico no, ci vuole troppo capo in campagna da me. E devo trasportare almeno 200-100 metri di capo, no... Ho la scoppio a batteria, roba che si possa trasportare da una parte all'altra. Certo, sarebbe come la batteria, ma boh, non so se si trova, no, non lo so. Ma io l'ho trovata elettrico e infatti domenica sono sceso a Fantatore, da Rabrico, beh, e l'ho comprata lì. E me la sono comprata, capito? Però è elettrico la mia, capito? Va bene, ma chi? Come l'ho detto? No, no, grazie, sono Marì dell'informazione, immaginati. Avanti, Marì. No, non ho seguito il discorso. Cos'è elettrico a batteria, ma chi? Cosa state parlando, scusa? No, il discorso, la motosega a batteria, c'è... No, 3,50 metri. C'è la motosega, c'è la lama per tagliare, eppure... Gli spugliatori, no, il tagliacipi. Ho capito, non vi stavo seguendo perché avevo l'altra frequenza inserita e vi stava disturbando, adesso l'ho girata. E ho capito, ma chi? Ho capito. E anch'io l'ho visto sul giornale l'altro giorno. Avanti, Giovanni. Ho visto, a batteria non l'ho vista la motosega, a essere sincero. Non mai visto, ecco. Però... Tutto è possibile, può darsi pure che ci sia, ma non lo so, capito? Però ce ne sono due o tre tipi, ce ne sono, per cui... Però io l'ho presa e mi ha preso lo stesso come quella che ho, capito? Così che ho fatto l'errore anch'io e è pesante anche quella. Così che però ormai è pigliata e non se ne va a vedere più. No, c'è la batteria, la Lidon ce l'aveva la batteria, insomma lì. La Lidon. Ah, Lidon, boh. Ma può darsi che la mettono, Adesso dovrebbero iniziare a mettere queste cose per adesso a primavera, capito? E vediamo un po' se c'è. Se esiste, lo chiudo che mi sta chiamando la signorina qua, per cui ne approfitto, vai. Grazie, Marchi, essere bene, tranquillo. Saluto di casa. Ciao anche a Marino, Marino, riprendi tu, io chiudo, dai, che mi sta chiamando la signorina qua. Ci sentiamo domani se Dio vuole, vai Marino. Benissimo, benissimo, Gio Maria, ok. Buona cena e siamo tutti in casa, Giovanni, domani si coincide. Sì, esiste tutto ormai a batteria, Giovanni. Noi stiamo usando, anch'io stamattina ho usato, il soffiatore per i coriandoli, no? Abbiamo il soffiatore tutto a batteria, tracolla, cioè la batteria tracolla e stiamo utilizzando i soffiatori. Pure per spostare i coriandoli da una cosa alla strada che passa la macchina e le ritira. Ormai c'è tutto a batteria, dall'A alla Z. Bene, avanti, va che... Ciao Giovanni, buona serata, grazie delle quattro chiacchierine, saluti in casa, a domani se coincide, buonanotte. Avanti dottor Marì. Dunque, oggi hai lavorato. Sì, sono stanco anche tardi oggi, ma anche tardi, ho una stanchezza, guarda. ci avevamo fatto un panino verso le 2:30 insieme all'altro mio collega e sono da casa alle 5 qualcosa, ho preso, mi ha fatto la luce e mi sono appoggiato, mi sono alzato poc'anzi, figurati, la stanchezza. E va giù sonno, non sai cos'è, siamo stamattina col soffiatore soffiando coriandolo. Poi ho iniziato il mio servizio, poi una cosa all'altra, poi sono uscito col camion e ho le braccia a pezzi, ero stanco, veramente stanco. Adesso, già via, domani appena arrivo, appena esco, scendo e scendo l'antenna, così chiamo ancora là, salgo, lo prendo e controlliamo. Ci dovrebbe essere qualcosa in corso sicuramente. A Giovanni arrivavo Santiago 3, tu accendi a cellare la 27 o va chi? Accendo, non so problemi, io accendo. E provi un controllo, ma deve essere qualcosa in corto sicuramente, boh, non lo so. Avanti. Senz'altro è in corto con l'antenna, se non arrivi, io acceso, prova a vedere se ti ascolto. Aspetta che giro, che sono sul 10 adesso, aspetta Aspetta un attimino. Non sono neanche gli occhiali. Sono arrivato. Gira gira neanche arrivo, bacchi a te. Non mi senti, bacchi, lascia stare, lascia. Passa qua, dai. Non mi sentivi neanche? No, neanche ti ascoltavo, figurati. E con la ricezione sul 10 ascolto tutti, anche sugli altri. Non lo so. Deve essere in corso sicuramente. Avanti, bacchi. Forse se è piazzato tutto bene non è colpa tua, è colpa dell'antenna. L'ultimo è polo caldo, fa massa col polo freddo. Adesso vediamo domani, Gira, domani faccio, scendo e così non perdo tempo. Adesso vediamo. Vediamo se riesco a scendere veloce. Così chiamando avanti lo chiamo con l'amico e salgo, lo prendo, scendo con gli strumenti, dai. Così non perdiamo tempo, una volta che in terra, controlla uno e l'altro. Ma dico bene, andare a prenderla e a scenderla in tutte e due si fa prima. No Marino, non è così. Ma chi? Marino. No, eri tu, no, sei una portante di QRM. Non ti sentivo. Nulla. Viene Marino, è arrivata l'ora del merendero. Ti devo lasciare. Ci sentiamo domani Marino, ciao, buonanotte, a domani se tutto coincide. Ok, Bacchia, domani si coincide, siamo tutti in casa, vai. Se in casa già vediamo, mi faccio sentire io se in casa, va. Ok, ciao ciao. Ok Marino, ciao ciao ancora.